Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Caso Resinovic, in tribunale l'incidente probatorio per acquisire la testimonianza dell'amico di Liliana, Claudio Sterpin, che potrà essere usata nel corso del processo. Diverbio a distanza con il marito della donna, Sebastiano Visintin, che ha chiesto di portare rispetto per la moglie scomparsa. Truffa da 10 milioni sui contributi per l'efficientamento energetico. Indagine della Guardia di Finanza di Pordenone. 6 imprenditori denunciati. Meccanismo complesso legato ai certificati bianchi. Misure di sicurezza ulteriormente rafforzate attorno alla base aerea statunitense di Aviano dopo l'attacco americano in Iran. La popolazione avianese sta vivendo con relativa tranquillità questa fase, anche perché abituata da tempo ai rumori dei motori degli aerei. Presentazione pubblica del progetto del nuovo molo ottavo del porto di Trieste, l'appuntamento solo 2 giorni dopo la notizia della convocazione in procura dell'ex segretario generale del porto Torbianelli, di recente rimosso dal commissario Gurrieri. Oltre un centinaio tra studenti e docenti provenienti da tutto il mondo partecipano da oggi a sabato a Udine al Master Internazionale Eurocultura, Politiche Europee, Cultura e Società in un contesto globale. Lo scopo è quello di approfondire il concetto di confine, non solo come elemento fisico e politico, ma anche come costruzione culturale e simbolica. Gli specialisti della Lega Italiana per la lotta contro i tumori di Trieste offrono un centinaio di visite di prevenzione oncologica a persone fragili con difficoltà economiche e sociali, un servizio che permette di avere diagnosi precoce e intervenire in modo tempestivo. Concerto gratuito questa sera sul rinnovato piazzale della Casa Rossa di Gorizia con 9 cantanti top del panorama musicale italiano. Siamo andati a vedere la preparazione della serata, che è intitolata Safety Love. Presentato poco fa il cartellone della 34esima edizione per Carni Armonie, festival internazionale di musica che coinvolge oltre 25 comuni con concerti di vari generi musicali in luoghi suggestivi come pievi, chiese, panorami montani. Obiettivo: puntare a un connubio tra storia, tradizioni e natura locali. Le 12:32 minuti, questi titoli. Ancora un buongiorno da Giorgio Beyerz e Maria Spezia a condurre questa seconda edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia di lunedì 23 giugno. In apertura dunque gli ultimi sviluppi del caso Resinovic, perché oggi in tribunale a Trieste era in programma l'incidente probatorio per acquisire la testimonianza dell'amico di Liliana, Claudio Sterpin, che potrà essere usata nel corso del processo. E c'è stato anche un diverbio a distanza piuttosto acceso tra lo stesso Sterpin e il marito della donna, Sebastiano Visintin. Nell'aula 290 del Tribunale di Trieste dalle 9:30 di questa mattina Claudio Sterpin, amico di Liliana Resinovic, parla di fronte alla PM Ilaria Liozzi nell'incidente probatorio richiesto dalla Procura un mese fa per cristallizzare, era stato detto, la testimonianza dell'uomo. Vista l'età, 86 anni, le condizioni di salute presenti in aula, l'unico indagato, il marito della donna, Sebastiano Visintin, che pochi minuti fa è uscito dall'aula per prendere una pausa. Sembra sarà ancora lunga questa testimonianza. È una testimonianza insomma che è importante, considerando che Sterpin sarebbe l'amante della moglie. Prima di entrare in tribunale i due uomini si sono incrociati davanti al tribunale attorno alle 9:10, assediato dalle telecamere. Visintin inizialmente non ha parlato con la stampa, poi appena ha intravisto Sterpin con l'avvocato lo ha raggiunto rapidamente per dirgli: porta rispetto per Liliana, solo questo devi fare. Detto questo, Visintin poi si è nuovamente chiuso nel silenzio. L'uomo appare provato, sembrava vagare nel vuoto. Sterpin intanto sta parlando da 3 ore esatte. Il suo avvocato Giuseppe Squitieri poco fa è uscito appunto durante la pausa tecnica a prendere dell'acqua e ha detto: l'uomo è lucido, sta parlando, il mio assistito sta parlando. Abbiamo chiesto anche se Visintin in aula avesse avuto qualche reazione pubblica, ma no, non ha il diritto di parlare, ha detto Squitieri, e non lo ha fatto. In aula anche la nuova procuratrice capo Patrizia Castaldini. Ma ascoltiamo appunto le testimonianze, questo scontro, incontro di parole tra i due uomini che si è verificato questa mattina, quando appunto il marito ha chiesto: porta rispetto per mia moglie, e Sterpin ha risposto: il rispetto l'ho sempre portato. Rispetto per Liliana, rispetto per Liliana. No, con le mani si può fare quello che vuoi, capito? Con le mani si può fare tante cose. Rispetto per Liliana, questo chiedo io, basta. Ma sì, rispetto per Liliana, ognuno ha il proprio. Non può mettermi in bocca, io non mi lascerò mai mettere in bocca cose che non ho detto. Questo è il concetto che lui tenta di fare. Queste sue parole ultime, da sputargli in faccia, in teoria è come se lo avessi fatto. Trieste, Navitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Ancora cronaca con la scoperta da parte della Guardia di Finanza di Pordenone di una truffa da 10 milioni ai danni del gestore dei servizi energetici e del gestore dei mercati energetici, attuata da 3 società attraverso i suoi 6 amministratori. Le indagini hanno riscontrato che le società avrebbero ottenuto in modo indebito, con conseguente negoziazione, oltre 50.000 titoli di efficienza energetica, noti come certificati bianchi, che attestano risparmi di energia tramite interventi e progetti di efficienza energetica. La Procura della Repubblica di Roma, che è subentrata a quella di Pordenone per ragioni di competenza territoriale, ha formalmente contestato ai 6 amministratori la truffa aggravata per il conseguimento appunto di erogazioni pubbliche e alle 3 società coinvolte anche la responsabilità amministrativa degli enti. Accanto alle indagini penali, i finanzieri hanno interessato la Procura regionale della Corte dei Conti, che ha quantificato appunto in oltre milioni di euro il danno erariale conseguente. Misura di sicurezza ulteriormente rafforzata attorno alla base aerea statunitense di Aviano dopo l'attacco americano in Iran. Gli avianesi stanno vivendo con relativa tranquillità questa fase, anche perché abituati da tempo ai rumori dei motori degli aerei. La base aerea statunitense di Aviano è uno degli obiettivi sensibili più controllati in questo momento in Italia dopo l'attacco americano in Iran. Rafforzate già da ieri mattina le misure di sicurezza attorno al sito di competenza delle autorità italiane, la prefettura di Pordenone recepisce le indicazioni in arrivo da Roma anche sulla base di informazioni di intelligence. Un comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza è atteso tra oggi e domani. Per quanto riguarda l'interno della base, il livello di allerta è a metà tra il terzo e il quarto grado su una scala di 5, bravo più. Il livello successivo, Charlie, viene adottato solo in caso di minaccia diretta e reale e implica delle regole molto più stringenti negli accessi. Nella base operano circa 3.000 soldati americani. Aviano è sempre un obiettivo sensibile, ma lo è ancora di più in questo momento, nel quale la Repubblica Islamica promette atti di ritorsione dopo il bombardamento a 3 siti nucleari ordinati dal presidente Donald Trump. Nei giorni scorsi è stato segnalato un maggior movimento di velivoli, aerei cisterna, caccia F-16 e aerei per il trasporto militare diretti in Medio Oriente. La popolazione avianese sta vivendo con relativa tranquillità questa fase, anche perché abituate ai rumori dei motori degli aerei da molti decenni. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Questa mattina c'è stata la presentazione pubblica del progetto del nuovo molo ottavo del porto di Trieste. L'appuntamento avviene solo 2 giorni dopo la notizia della convocazione in procura dell'ex segretario generale del porto Torbianelli, di recente rimosso dal commissario Gurieri. È stata annunciata come la più grande opera del porto di Trieste. Il progetto in partenariato pubblico-privato del Molo 8 del porto prevede un investimento di circa 316 milioni di euro, di cui 207 milioni coperti da finanziamento pubblico e 109 da privati, per la realizzazione della fase 1 del nuovo terminal container. 17 ettari la superficie complessiva su cui verranno costruite infrastrutture e tecnologie di ultima generazione, in grado di movimentare 450.000 container l'anno, 1.600.000 container a ultimazione del progetto. Nella conferenza stampa di presentazione è stato sottolineato come per la prima volta in Friuli Venezia Giulia si terrà un dibattito pubblico per un confronto prima delle decisioni finali. Nei prossimi 4 mesi amministrazioni, categorie economiche e cittadini potranno fare le loro osservazioni. Stiamo conducendo una partita decisiva che cambierà il volto dello scalo, ha sostenuto il commissario straordinario dell'Authority Antonio Guerrieri. Questa è una pillola di ottimismo che noi abbiamo nel nostro porto, e gli operatori, non solo quelli del porto, ma anche le industrie, gli operatori economici della regione Friuli Venezia Giulia avranno una risposta. Mentre il commissario non ha voluto commentare la rimozione di Vittorio Torbianelli dalla carica di segretario generale dell'autorità di sistema portuale. No, non ci sono novità, perché io sono silenzioso perché faccio gli interessi del porto e quindi noi non possiamo parlare di altre cose oggi. Può darsi che domani sì, ma oggi no. Silvano Barone, TGR Friuli Venezia Giulia. Rispondendo alle domande dei giornalisti sulle conseguenze della guerra in Iran, il commissario straordinario dell'autorità portuale Antonio Gurieri ha affermato che se si chiude Hormuz è un problema non soltanto per Trieste ma per tutti. Speriamo proprio che la situazione non peggiori, ha sottolineato Gurieri. Stiamo particolarmente attenti a tutte le dinamiche che si stanno svolgendo per avere una soluzione A, B o C, perché non c'è una sola soluzione. Mi auguro che le cose si risolvano pacificamente il più presto possibile, ha concluso Gurieri. Ed ora la situazione del meteo: il cielo è sereno su pianura e costa, da poco nuvoloso a variabile in montagna. Queste le temperature: a Trieste 25 gradi e mezzo, a Gorizia 29 gradi e 5 decimi, a Udine e Pordenone 28 gradi. A Tolmezzo e Tarvisio 26 gradi, a Forni di Sopra 24, a Sappada 21 gradi e mezzo, a Piancavallo 19 gradi e 5 decimi. In quota sul Monte Lussari 18 gradi e 5 decimi, sul Monte Zoncolan 16. Passando alla costa, a Lignano ci sono 28 gradi, a Grado 26. Le previsioni a cura dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale: nel pomeriggio cielo variabile verso la zona montana, dove saranno probabili rovesci e temporali che successivamente potranno interessare la pianura, specie l'alta pianura. Qualche temporale potrà essere forte, associato a raffiche di vento. Venti di brezza sostenuti lungo la costa. Per domani cielo in prevalenza sereno, poco nuvoloso, maggiore nuvolosità pomeridiana sulla Carnia, dove non è del tutto esclusa qualche breve pioggia. Venti di brezza. L'ARPA segnala inoltre a Trieste il superamento della soglia di attenzione di ozono atmosferico, destinato a permanere almeno sino alla sera di giovedì, quando dovrebbe presumibilmente piovere. E di conseguenza il Comune invita i cittadini ad adottare tutte le precauzioni del caso, in particolare bambini, anziani e persone asmatiche o con patologie cardiologiche e polmonari. L'azienda sanitaria numero 1 triestina consiglia a queste fasce a rischio di evitare di svolgere attività fisica all'esterno e soprattutto nelle ore calde della giornata. Si consiglia inoltre a tutti una alimentazione ricca di antiossidanti come vitamina C, vitamina E e selenio. Oltre alla crisi, dialogo aperto sulla composizione negoziata è il titolo dell'incontro dedicato al mondo dell'impresa, che approfondirà lo strumento della composizione negoziata della crisi, di recente introdotto nell'ordinamento italiano per affrontare in modo tempestivo situazioni di difficoltà aziendale. Sotto la lente la possibilità di risanamento e continuità aziendale grazie a un approccio guidato e multidisciplinare. Tra i relatori Sandro Pettinato, vice segretario generale di Unioncamere, e Massimiliano Ciarrocchi, direttore generale di Confindustria Alto Adriatico. Appuntamento a Udine, alla Camera di Commercio Pordenone Udine, alle 14.30. A sorpresa risultano poche finora a Trieste le richieste di contributi pervenuti alla Regione per l'installazione di impianti di videosorveglianza nei locali pubblici. Abbiamo cercato di scoprirne i motivi. I fondi ci sono, il contributo del 100% delle spese ammissibili, ma le richieste dal 3 marzo, data di partenza del bando, sono poche. Parliamo del contributo per l'installazione di impianti di videosorveglianza per attività professionali, produttive, commerciali o industriali a Trieste e a Gorizia. Piccole e medie imprese che spesso lamentano poca sicurezza nell'area urbana, nei pressi dei loro locali. Da qui la decisione della Regione di dotare il bando di 1 milione di euro, soldi che poi vengono erogati dalla Camera di Commercio. Semplificata anche la procedura delle domande. Lo sottolinea il presidente dell'ente camerale Antonio Paoletti, che spiega anche che il rimborso avviene dopo un paio di settimane dalla presentazione della fattura. Il costo medio di un impianto di telecamere si aggira tra i 5 e i 6 mila euro. A Trieste, in alcuni locali del centro, i titolari hanno già fatto richiesta dell'impianto di videosorveglianza, che può essere anche soltanto esterno al pubblico esercizio. Rappresenta soprattutto un deterrente. Lo sottolinea l'assessore regionale Pierpaolo Roberti, aggiungendo che con un altro 1 milione di euro è stato finanziato un bando che riguarda l'assunzione di vigilantes per i pubblici esercizi. C'è tempo fino al 31 dicembre per fare la richiesta di contributo. Trieste, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Oltre un centinaio tra studenti e docenti da tutto il mondo partecipano da oggi a sabato a Udine al Master Internazionale Eurocultura, Politiche Europee, Cultura e Società in un contesto globale. Obiettivo è l'approfondimento del concetto di confine non solo come elemento fisico e politico, ma anche dal punto di vista culturale e simbolico. A Udine, l'opportunità per 70 studenti di 38 nazionalità diverse di studiare l'idea di come superare i confini diventa anche opportunità per praticarla. Decisamente quest'anno ha un altro tipo di sapore e di impatto per l'orribile situazione del mondo. Dà speranza vedere così tante nazionalità qui ad affrontare questa tematica. Incontrare persone di tutte le parti del mondo, condividere esperienze e creare assieme conoscenza è grandioso. Si tratta di un programma intensivo di una settimana che si colloca al termine di un master internazionale di 2 anni chiamato Eurocultura ed offerto da un consorzio di 8 università europee e 4 extraeuropee. il superamento dei confini è il tema proposto dall'Ateneo Friulano in connessione con Go 2025 e l'intuizione che sta alla base della capitale europea della cultura transfrontaliera. Gorizia ospiterà una visita studio degli studenti. Saranno impegnati in varie attività, la presentazione di un loro saggio, laboratori creativi e momenti dedicati alla loro carriera futura. Emma Gustafsson, coordinatrice del Master Internazionale Your Culture di Udine. C'è una varietà interessante di attività accademiche. La loro prima introduzione un po' al mondo accademico vuole essere una simulazione di un convegno effettivo, di una conferenza. Claudio Cressatti, direttore del Master. Per noi di Euroculture il superamento dei confini, la creazione di rapporti intellettuali ma anche umani tra gli studenti, tra studenti e docenti, è al centro della filosofia che ha ispirato ormai più di 25 anni fa il Master. Poter radunare qui così tante persone di origini così diverse e parlare di come integrare o disintegrare confini è estremamente importante per la costruzione del mondo futuro. Udine, Lillo Montaltomonella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Prendersi cura delle donne, medicina di genere nelle malattie neurologiche, il tema del convegno che proporrà un'occasione di dialogo e confronto su tematiche che riguardano la condizione, la vita relazionale e fisica delle donne in un'ottica di promozione della consapevolezza e di sostegno alla prevenzione. Tra i relatori Paolo Manganotti, direttore della neurologia di ASUGI, e la sociologa Margherita Paglino. Appuntamento a Trieste all'Urban Center di Corso Cavour alle 15.30. Gli specialisti della Lega Italiana per la lotta contro i tumori, l'ILT di Trieste, offrono un centinaio di visite di prevenzione oncologica a persone fragili con difficoltà economiche e sociali, un progetto che permette di avere diagnosi precoci e intervenire in modo tempestivo. Nel servizio la voce di Sandra Dudine, presidente l'ILT Trieste. A disposizione di chi magari non se lo può permettere per prevenire il cancro, gli specialisti della Lega Italiana per la lotta contro i tumori effettueranno visite mirate di prevenzione senologica, dermatologica, otorinolaringoiatrica e urologica per intercettare precocemente pazienti che necessitino di appuntamenti di secondo livello. Questo è un progetto che la LILT di Trieste ha condiviso con Fondazioni Casali e Rotary Trieste, e che consiste nell'offrire delle visite di prevenzione oncologica a una categoria di persone fragili. Fragili nel senso che hanno dei disagi, disagi sociali e disagi economici. Sono delle visite di prevenzione e ne faremo circa poco più di un centinaio. La diagnosi precoce è una condizione per cui poi, e nel caso ci fosse un problema, è più facile curare ed è più risolutivo. Ma come verranno scelte le persone che effettueranno le visite alla sede della LILT in Piazza Ospedale? Il coinvolgimento della LILT nel progetto serve proprio a questo scopo, nell'individuare le persone grazie ai rapporti che la LILT di Trieste ha sul territorio, nelle parrocchie, con le assistenti sociali che operano sul territorio e con la Caritas. Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. Concerto gratuito questa sera sul rinnovato piazzale della Casa Rossa di Gorizia con 9 cantanti top del panorama musicale italiano. Siamo andati a scoprire come va la preparazione della serata che è intitolata Safety Love. 6.000 posti in piedi, 600 a sedere con invito per il concerto di stasera alla Casa Rossa di Gorizia. Dalle 21 si esibiranno nell'ordine Ermal Meta, Levante, Piero Pelù, Francesca Michelin, Settembre, Johan Thiele, Mario Biondi, Serena Brancale e Leo Gassman, accompagnati da 30 musicisti dell'Orchestra Giovanile Filarmonica Friulana diretta da Marco Battigelli. Conduce Monica Setta con l'attrice Anna Ferzetti, che introdurrà alcuni brevi momenti tematici sulla sicurezza. Il festival Safety Love, infatti, unisce musica e cultura della prevenzione e protezione nel lavoro. Palcoscenico da 20 metri per 16, 20.000 watt di potenza audio, 8 telecamere, 60 proiettori luce, video wall da 90 metri quadri. Le nuove piantumazioni delle aree verdi del piazzale stanno già appassendo, ma il concerto farà rifiorire la voglia di musica. Martedì sera, infatti, dopo solo 24 ore, saranno i Massive Attack a salire sul palco, questa volta a pagamento. Cancelli aperti dalle 19.45. Sentiamo il direttore del Festival Salute e Sicurezza, Giuseppe Mulazzi. È un concerto col quale artisti, cantanti si sono prestati a riconoscere quelli che sono i valori rappresentati all'interno della Carta di Urbino, che è un decalogo dove sono espressi, come dire, dei principi universali tratti dalla Carta dei diritti dell'uomo, dove prevale la salute, la sicurezza e la dignità delle persone che lavorano. E noi riteniamo che la musica sia un veicolo eccezionale per far rivendicare dei doveri, ma anzitutto dei diritti. Gorizia, Maurizio Mervar, TGR Friuli Venezia Giulia. 34esima edizione per Carni Armonie, festival internazionale di musica che coinvolge oltre 25 comuni, organizza concerti di vari generi, dalla classica al jazz, in luoghi suggestivi come pievi, chiese, panorami montani, puntando a un connubio con storia, tradizioni e natura locali. Questa mattina la presentazione del nuovo cartellone nel Palazzo della Regione di Udine. A Claudio Mansutti, direttore artistico della rassegna, abbiamo chiesto quando sarà la prima data del calendario eventi. Iniziamo giovedì a Tolmezzo presso il Teatro Luigi Candoni con un grandissimo concerto sinfonico, l'800 sinfonico si chiama, avremo musiche di Mendelssohn, Bruck e Schubert con l'orchestra della nostra regione, una grande solista, la Solo Dobova, e Florian Krumpok direttore. Saranno oltre 40 spettacoli che si sviluppano fino a settembre, con grandi nomi come ad esempio il quartetto in residenza all'Indaco, che è probabilmente il quartetto d'archi più importante italiano in questo momento, tanti giovani che promuoviamo e che lanciamo nel mondo del professionismo, ma anche tanti grandi professionisti, ne citiamo uno ad esempio, Stockhausen, il figlio del grandissimo compositore anche lui stesso, con la sua bellissima tromba jazz etnica, ma poi appunto la caratterizzazione di Carni Armonie è il fatto di avere per ogni spazio diverso un concerto diverso, quindi sia il pubblico sia i residenti possono quasi ogni sera, diciamo, avere uno spettacolo diverso e quindi godersi la bellissima montagna con anche dei annessi connessi, i musei, le passeggiate e l'enogastronomia. Secondo lei qual è l'appuntamento clou di tutta la rassegna? Il 4 agosto questo Gershwin Bernstein con questo gruppo giovane che viene da fuori, ma che è veramente bravo e che fanno tutta una rilettura di questi compositori ad esempio, quindi è una cosa abbastanza diversa, ma poi si può andare all'aperto con l'etnico e quindi veramente ce n'è per tutti i gusti. Decima edizione per Diversi e Saporiti nel Giardino del Mondo, piccolo festival delle meraviglie, rassegna teatrale dedicata ai giovanissimi che sarà inaugurata oggi dello spettacolo musicale Rulli Frulli Marching Band, dedicato alla capacità di superare le differenze facendo musica d'insieme. Appuntamento a Pordenone, alla Casa della Madonna Pellegrina, alle 19. L'evento sarà preceduto da un laboratorio inclusivo alle 16. Tutto esaurito per il treno storico delle risorgive dello Stella, partito da Trieste e diretto a Palazzolo dello Stella, con carrozze 100 porte degli anni 30, che ha fatto registrare il più non è di partecipanti. Ad accogliere i viaggiatori nella stazione del Paese della Bassa anche il presidente del Consiglio regionale Mauro Burdin e il sindaco Franco D'Altiglia. In occasione del 160° anniversario del Corpo delle Capitanerie di Porto, Guardia Costiera, a Trieste, al Palazzo della Regione, si terrà un concerto celebrativo a cura dell'Orchestra di Fiati del Conservatorio Tartini, cui assisterà il vicecomandante generale del Corpo, ammiraglio ispettore Sergio Liardo, alle 17.30. Segnaliamo ora alcuni appuntamenti culturali di oggi. Solitudine, genere, rapporti familiari, società corrotte e bullismo sono i temi dello spettacolo A Fogo di Dino Lopardo. Nuovo appuntamento della 10ª edizione di Festi, il Festival Estivo del Litorale, che sarà in scena a Udine al Teatro San Giorgio alle 21. Segue una giovane coppia in un luogo in lungo impegnativo viaggio in bicicletta attraverso le Ande, il documentario Postcards from the Verge, che sarà proiettato in occasione dei 100 anni del CAI di Pordenone a Cinema Zero alle 21. Alla serata interverrà l'alpinista e pittrice Riccarda De Ecker per approfondire il tema dell'intersezione tra donne e montagna da una prospettiva femminista. Nell'ambito della 27ª edizione del Trecourt International Film Festival sarà proposto un mosaico di 39 brevissimi tantissimi film di generi diversi, provenienti da tutto il mondo, scelti fra migliaia di corti presentati al comitato di selezione. A Trieste, al Cinema Ariston, alle 21, le opere in lingua originale sono sottotitolate in italiano. E sono 5 gli eventi di musica del DNA Festival Internazionale delle Arti, giunto alla terza edizione, che sarà inaugurato oggi dal concerto dell'Adriatic Duo, che proporrà musiche di Jorac e Debussy, a Duino Aurisina, al Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico, alle 20. Ed è tutto per questa edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia, che è stata redatta e condotta da Maria Spezia e Giorgio Bearz, con la collaborazione tecnica di Caterina Cablelli e di Walter Vidonis. Ha collaborato in redazione Laura Sarasini. Grazie per la cortese attenzione, appuntamento con il prossimo giornale radio alle 15. A tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.